Sì. Sandro. Mi può dare conferma, vai fra. Ehi, K, Va bene, dai Claudio, allora ci sentiamo tutte le prossimine, magari più tardi, se ci sei. Niente. Se prendi poi chiudi, là. Scappa, ciao ciao. Avanti giù. Ok, ciao ciao Claudio, di nuovo alle prossime, dai. Avremo modo di sentirci magari quando sei anche a casa. E allora fra, mi senti bene, sì? Sì, abbastanza. Abbastanza bene ti ascolto, anche a te. E niente, io a lui ce l'ho di fronte qua, lo vedo da qua se è possibile. Diciamo che sentino da dove sono io, se prende il cannocchiale lo vedo. Eh beh, sicuramente sì. Va bene, dai, io ritorno come prima, tanto già mi senti sempre. Bene, lo so, e poi lì, praticamente lo vedi via mare, si può dire, dai. Esatto, proprio via mare. E dunque è un grande vantaggio, e beh, la posizione tua è ottimale. È ottimale per molti posti, moltissimi posti anche, anzi. Va bene così. E beh, fra, era un po' senza sentirti. Giù, non ci stavo salendo più qua, perché qui si bolle, capito? Si bolle. E allora evitavo, non accendevo niente e mi stavo meglio giù. Giù c'ho anche l'aria condizionata, c'ho tutto e si sta meglio. Ovviamente quello già è vero, fra. E in questi giorni era massacrante il caldo, oggi magari un po' meno, e poi c'è sempre caldo abbastanza, però diciamo che tra ieri e oggi un pochino ha abbassato la temperatura, o perlomeno ha abbassato l'umidità, non tanto la temperatura quanto l'umidità. Infatti, no, io qua c'ho un ventilatore, ma quei giorni il ventilatore non serviva a niente, perché se c'è aria calda ti manda aria calda. Invece adesso vedo che è cambiato tutta la musica, c'è un po' d'aria, entra qua e via, c'è la porta aperta del terrazzo e si sta, diciamo, c'è caldo, ma sì, però non è come affogato come era sui giorni scorsi. Sì, indubbiamente ha calato un po', l'umidità perlomeno è quella che dà più fastidio, perché a me sinceramente il caldo proprio non me ne dà fastidio, però questo fatto dell'umidità altissima, quello ti fa sudare in una maniera impressionante, sei sempre con la maglietta tutta bagnata, perché è quello il motivo, l'umidità, perché se no il caldo non me ne frega niente, anche se arriva a 33-35 gradi non mi interesserebbe più di tanto, ma quando c'è l'80% dell'umidità è micidiale, fra. Quello sì, l'umidità sì, è quella, purtroppo ce l'abbiamo e ce la dobbiamo tenere. Quella non conviene neanche quando c'è molta umidità, è un casino, ti prende tutte le ossa, ti prende, è un casino, specialmente da una certa età in su. In effetti è così, vabbè, pazienza, comunque abbiamo già sopportato abbastanza in quest'estate con questo caldo, adesso fra un po' dovrebbe, vabbè, forse dalla settimana prossima, la metà settimana dicono che aumenta di nuovo il caldo, però ormai siamo in fase discendente, per cui dovrebbe abbassare più in là. Ehi capo, speriamo che almeno a settembre sia un po' più calmo, dai, non dico di fare freddo, però un po' più calmo, più freschino. Certo, comunque, la primavera è la temperatura migliore sempre, perché anche se ci sono dei giorni abbastanza freddi di primavera e altri magari un po' più caldi, però diciamo che per il fisico umano la primavera è la migliore in assoluto. Lascia fare il caldo, lascia la cosa. Ehi, Eugenio, ciao Eugenio, mi hai ascoltato? Buonasera, sono qua e sono alle prese, sto facendo un lavoretto. Allora, come mi raccontate, lo signori, caldo, la sede di G, cosa caldo, caldo? Vabbè, tu sei abituato a 80 gradi quando sei a lavoro, già lo credo. A te il caldo non ti fa né caldo né freddo, ti fa solo caldo abbastanza, ma soprattutto del tuo fisico. Ciao Eugenio. Buonasera Giulio, buonasera. Vabbè, già mi stai ascoltando, perché mi sentivo poc'anzi, come ho fatto mi sentivo a Claudio, sentivo, sicché mi senti anche tu a Porto Torres, se non c'è problema. Avanti Franco. Ehi chiappa, se non ti sente Eugenio. Allora si è messo male. Beh certo, non posso dire che sono messo molto bene, quando sono fatto cosa vuoi mettere, cosa vuoi fare, non più di tanto. Però diciamo che in questi ultimi giorni ho fatto anche dei collegamenti con la penisola, anzi addirittura con la Francia, col Belgio, con lo Slovac, per dire, no, ma quello è il miracolo della propagazione, non della potenza della radio. Avanti oggi. Certo, ti ascolto, non è la tua modulazione solita, non è il tuo segnale solito, ma ti ascolto. Lo so, perché già da un po' di tempo, da 5-6 mesi o 7 anche, forse sto usando un manachino da un watt di potenza con un microfono normale e basta, niente di più. Niente di più, ho visto che già mi ascoltate ugualmente, per cui posso continuare ancora così. Avanti fra. Ehi, chiappo. No, abbastanza bene. Diciamo che io ti ascolto sia di una maniera che dell'altra. Già arrivi benissimo qua. Magari, vedi, poco fa verso Trentino, magari c'era qualcosa che ti ostacolava. E da me invece non ti ostacola niente, perché arrivi sempre bene, sempre bene. Sempre nello stesso modo. Sì, no, ma Claudio non me l'ha detto, mi ha detto che anche che mi sentiva, infatti appena che lui ha parlato io ho subito detto avanti, mi ha subito riconosciuto, a differenza di io che non sono riuscito a riconoscerlo subito, mi sembrava addirittura Antonello Barracuda da Ursic, penso un po', me l'avevo scambiato per la sua voce, perché mi arrivava basso del radio, ma poi strada facendo, si è avvicinato di più al microfono e capivo perfettamente quello che diceva, anche se si trova a sentino. Vai oggi. Ogni tanto sparivi, ogni tanto sparivi dalle mie parti. Cosa è successo? Forse qualche cretino metteva la portante. Sarà il suo deficiente che ogni tanto c'è qualcuno che fa il cretino, ma non ha, è solo un malato mentale. Avanti fra. Sì, è vero. Oggi anche da me ogni tanto non mi spariva del tutto, però c'era qualcuno sopra e gli parlava. È sempre il solito figlio di Cagna che continua a mettere portante. Ecco, a differenza ho visto che c'era la portante. Ma ci vuoi fare, anche loro ci vogliono. Ah, ti oggi. Sì, amore, è stato già di ma saluta qua. Uia. Cosa vuoi dare? Ha giocato un travaglio, cosa vuoi dare? Cappa. La volete stai facendo. Oh, la guarda, due giorni fa ero lì a Porto Torres, da Corno, da Marco, alla Marinella. Ha tutto il mare modificato. E non lo sapevi. L'ha rifatto, ristrutturato. No, non lo sapevo, da tempo che non passavo più da Marco. Aspetta, quando sono entrato a Giovato, ma sicuro siamo che non te si va. Sì, l'ha ristrutturato, è ristrutturato. Cappa, è bello, l'ha fatto benino, l'ha fatto. Ha fatto anche l'entrata da fuori per il ristorante, tutto. Meglio così. Avanti giù. Vabbè, stavo facendo un controllo. Sì, oggi, comunque vabbè, quando non mi senti pazienza, non fa niente, dai. Adesso forse mi stai ascoltando. Speriamo che quell'imbecille diventi adulto qualche volta, sto sempre controllando. Perché di solito è un bambino, anzi da quando è nato, no? Perché è un figlio di puttana e basta, niente di più. Vabbè, non fa niente. A tutti i bimbi giù, a tutti i bimbi, dove mi sa? Adesso ne ha portate, mentre parlavo? No, io ti ascolto bene adesso. Fregatene giù, lascia stare, non ti preoccupare, già ti ascoltiamo lo stesso. Già lo sai, se voglio lo scatto da casa addirittura. Coraggio civile, dice. Forse due giorni che la faccia già da senza dubbio. dai, non arriviamo a quello. beh, non ne vale la pena, perché con questi miserabili non ne vale proprio la pena. Avanti oggi. Ma allora, cosa mi raccontate di bello? Raccontatemi qualcosa. Io non ho detto raccontare niente perché sto sopravvolando. Un estate di merda, però sto sopravvolando e niente. Non hai fatto ferie quest'anno? Vai a ferie, c'ho navi a destra e a sinistra quest'anno. Poi lascia stare, vado a ferie. Vedi. Caspita, vabbè, te li fai a settembre, là, quando comincia a calare, settembre, ottobre. E quando tutti gli amici se ne ritornano al lavoro, mi tengo le ferie io, va la giura. Vabbè. Almeno trovi meno traffico, meno tutto là, e ci sta meglio, ci sta avanti giù. In effetti a settembre tu hai ragione, se tanta gente vi entra, magari questi amici non sono più in ferie, però diciamo che il periodo migliore è per fare le ferie, o perlomeno io la penso così, o Eugenio. Ma meno il traffico, anzi, più gente c'è meglio è. Tu ci si diverte. Da soli è una baraglia. Non è che sei da solo, quando vai intanto sei con la famiglia, dunque perlomeno io sempre vado così. Quando io me ne sono andato in ferie, a me mi interessava la famiglia, le amicizie lasciano il tempo che trovano. Non si fidare troppo, sì, non disdegnare le amicizie, però non si fidare nemmeno troppo. Vai fra. Che amico mi ha fidato dei butti. Ti butti sicuramente, sono più di voi, che ti butti che ti apprezzano. Vai oggi. Vabbè, dipende sempre da quella amicizia. Vabbè, già lo sai. La vigliaccheria è sempre sull'orlo dell'azione, oggi. Vabbè. Ma ci sono anche quelli, ma ci sono anche quelli sinceri, vai. Vabbè, quello che conta è essere sempre educati con la gente, rispettare tutti, però allo stesso tempo difilare anche di tutti, soprattutto. Vai fra. Vabbè, cosa ci vuoi fare? Il mondo è così, fatto così, è più, a me mi sembra, più sta andando e più si sta imbastardendo. Infatti, questo è sempre in ascesa, la bastardaggine è sempre in ascesa, guarda, non ci sono dubbi, per cui io che ho già una certa età, dopo aver vissuto una certa vita, ti posso garantire che ho fatto un'esperienza e il mio pensiero mi porta a quello. Vai, Luigi. Scusate un attimo. Va bene, dai, Santiago, sto per te comunque, Luigi. Avanti, fra. Io poco fa, capita, 9 watt, modulati 13 watt. 9, quasi 9, 10, dai, più o meno, 9,7, 9,8, 9,6, questi a segmenti, no? Ci sono i segmenti che va oltre 9, ma stando vedendo dove si ferma, fanno una considerazione con altre strumentazioni, posso dire sì, insomma oltre 9,5 sicuramente. Io sempre con solo fatte, dai. Visto che c'hai il rosmetro, c'hai. Allora, qua hai detto quasi 9,20, 9,10 volevo dire, così. Vedi a vedere, così com'è, a vedere adesso, Giulio, se ho aumentato un bel. E così sei intorno ai 9,15 e a voglia si è aumentato, altro che. E allora già va. Niente, non lo uso quasi mai, ce l'ho attaccato, però non lo uso mai. Lo tengo sempre in caso che se qualcuno non mi ascolti, no. Sto dicendo, io non ne ho mai avuto grande presenza di potenza, sempre con misure omologate sono andato e continuo così, intanto non è il caso, già mi sento lo stesso. Ripeto, un paio di giorni fa addirittura ho parlato con la Francia, vabbè, se vuoi dire, ma è la propagazione, certo, è la propagazione, ma anche oggi, come hai potuto sentire, Claudio mi sentiva essendo a 50 km da dove sono io, per dire no, non c'è problema. Quando quando la cosa è sincera e basta. Considera pure la mia posizione dell'antenna, che è molto bassa e non è più di tanto. Ma però, pur volendo, in caso di necessità, già lo sai cosa posso fare, no? Ehi, capo, certamente. È sempre un'alternativa, c'è sempre alle cose. So, lo so che ce l'hai la roba per poter uscire bene anche. Appunto, sì, che non è quello il problema, cioè no, anche se non ho mai avuto manie di una certa potenza, no, va bene così, dai. Guarda, sono con questo addirittura posso fare così, guarda, ecco, sono con questo, come vedi già la differenza, ritorno indietro così, vai. Ehi, capo, va bene, no, mio, siccome lo sa da tanto che non accendevo neanche una radio, l'altro ce l'ho acceso, tanto per scaldarlo un po', e sto usando un Galaxy, un Saturnetto. Va benissimo, bella radio anche, no, non c'è problema. Quelli hanno di solito, l'unico difetto del Galaxy Saturnetto è il coso, lo smitter, che non ti danno mai i segnali reali di quelli che ricevi, però in trasmissione sono bellissimi, vanno benissimo, radio bella e anche forte, oltre che essere chiara, molto chiara, ma anche forte. Ehi, capo, qui ho abbinato l'MP5, l'ho abbinato. C'ho anche lo Shure che è abbinato qua, però probabilmente rimane più bassa. E adesso dove l'ho messo? Eccolo qua. E c'ho la metto la cuffia andata da fanculo. Quello già lo sappiamo, no, non c'è problema, già lo sappiamo a che livello ti ritrovi come attrezzatura alla grande, e vabbè, comunque, ma per le persone che sono rimaste, io in questi ultimi giorni, io parlo degli ultimi 15 giorni almeno, avrò sentito se no 4 persone più o meno, 4-5 persone, non di più, guarda, questo è lo Shure, questo era sempre chi ce l'aveva prima, il Galaxy, usava questo microfono qua, adesso sì, lo potrei anche usare, però mi hanno detto che c'ha una bella modulazione, poi non lo so, vedi tu. Sì, la modulazione è bella lo stesso, però io preferisco l'altra, quello che stavi usando poc'anzi, ha una modulazione più corposa l'altro, questo qui è un pochino, come definirla, un pochino più schiacciata, mi diciamo, però abbastanza buona anche questa, però l'MP4 era sicuramente, anzi l'MP5 cosa era? Era sicuramente superiore a questa, almeno perlomeno per le mie orecchie. Sì, quella c'ha più acuti alti, quello è migliore, sì, quella è molto amplificato anche, come microfono, mentre questo, non lo so neanche se è amplificato, c'ha un pomello che va da 1 a 9 e basta. Sì, diciamo che un piccolo senso di amplificazione si sente, però io parlo di timbrica, no? La timbrica era più bella quell'altra, però anche questa è abbastanza chiara, no? È abbastanza forte anche, non c'è problema, però io preferisco l'altra, la verità, ma comunque indipendentemente dal tuo momento che vuoi usare uno o l'altra va sempre bene, Sì, quello sì. No, io uso sempre, c'ho anche l'MB4 abbinato qua, va bene, però con le prove che avevamo fatto un giorno mi hanno detto che è molto meglio questo qua, l'MB5. Anzi no, scusa, ho sbagliato io, l'MB4 è, non 5. Va benissimo, è una radio più corposa, con più bassi, in poche parole, dunque cioè le parole sono scandite in una maniera più chiara, più pulita, ecco. Però ripeto, anche l'altro lo Shure andava benissimo lo stesso, non è che lo va, perlomeno qui dalla mia stazione io ci sentivo bene lo stesso, non c'è problema. Sì, vabbè, una volta che se gli abbini un microfono è sempre, non stai lì a stare a cambiare, a me non è, mi piace tanto, mi piace uscire sempre con un microfono, perché che esce bene, a meno che poi non si svasa e bisogna cambiarlo per forza. Sì, adesso ho letto ed è MB4, sempre del modello nuovo. Sì, va benissimo, c'è problema. Non c'è problema, va benissimo. Ripeto ancora una volta, io preferisco questa, ma comunque non è che sono io che devo decidere quale microfono devi usare. Ma va bene, tu c'hai due, però questa per me è più bella. Questa è bella la modulazione tua, perché è bello piano, è chiarissima la modulazione. E adesso cosa hai fatto? Perché l'hai abbassata? Hai abbassato il volume o i toni? Cosa hai fatto? No, mentre stavo parlando non me ne sono accorto e ho tolto il coso della... ho tirato il cavo e ho tirato il cavetto e ne è uscito il jack, ne è uscito. Vedi, questo è l'MVP5 invece, questo qua. E questo mi sembra ancora migliore, addirittura rispetto al 4. Questo qui ha una... hai aumentato, la chiarezza della radio, ripeto, anche il 4 era chiarissimo e sia ben chiaro, però questo qui gli ha dato una puntina in più di toni alti, a differenza del 4, ma lo sappiamo che la caratteristica dell'MB4 ha più bassi e meno toni alti, questo invece se li ha regolabili, evidentemente hai una puntina di toni alti, ce l'ha questo. Cioè il mic gain del microfono a massimo, a 10, e i toni ce li ho a 0, ce li ho, perché se li aumento magari mi rovina la radio, vedi? Allora adesso lo metto a 1, vedi? Adesso ce l'ho a 1 i toni, e più vado, vedi? Adesso a 2, più vado magari è molto migliore, vedi? Così adesso è a 6 i toni. Sì, adesso che sia 6, sì, ma fino a 1, 2, forse anche 3, non c'è la differenza, perlomeno io non l'ho notato, non me lo permette di notarlo, di notare la differenza nel mio baracchino. Magari quando sei andato a 6, sì, la differenza c'era, ed era meglio prima, insomma, ecco. Così è meglio, dai, è meglio così la modulazione. Sì, va bene, va benissimo, non c'è problema. Vabbè, comunque, io ripeto, sempre con la saponettina, con il microfono normale, qua, tranquillo e pacifico, anche se potrei anch'io cambiare il microfono, ma non mi dà nessun motivo di cambiarlo, per il semplice fatto che se lo cambio dovrei fare intanto un collegamento perfetto, con un allungo, perché se lo metto vicino, mi hanno detto che c'era un rumorino di fondo, tipo la ventola dell'alimentatore ad esempio, però quello è dovuto alla distanza, perché quando lo metto vicino al baracchino allora fa quel difetto, se invece ci metto un allungo, faccio una prolunghezza, allora allontanandolo probabilmente esce pulito. Vabbè, però caspita, anche se stai uscendo con pochi watt, stai uscendo, c'hai un microfono palmare, sicuramente l'originale della radio, sta uscendo benissimo, ma molto bene. Sì, lo so, va anche molto bene in FM anche, in FM, questo qui è uno monodato che va bene anche in FM. Per cui, ma comunque noi usiamo sempre la M, perlomeno siamo abituati qua a Sassari o quasi tutti in Sardegna a usare la M e rimaniamo qua. A pensare che l'FM è molto meglio, però l'abitudine che abbiamo noi a usare la M, anzi non so come abbiamo fatto a uscircene dal canale 5. Vabbè, quella è una storia un po' lunga, perché sennò di solito eravamo sempre su quel canale lì, ma comunque uno vale l'altro, non è quello il problema. Si sa, poi quando qualcuno nel corso del degli anni, tornando indietro di tanti anni, aveva deciso di andare sul 10, abbiamo seguito volentieri di andare sul 10, non c'è problema, e continuiamo a stare qua. Però adesso qui è proprio completamente azzerato, perché non c'è mai più mai nessuno. Io accendo alle volte anche la mattina per vedere se c'è qualcuno, sempre silenziato, non c'è mai nessuno. Ehi, aspettiamo l'inverno a vedere che la gente rimane più rincasata. È la stessa cosa, diciamo, quando siamo in inverno, in inverno diciamo le stesse cose, e quando piove, vabbè, domenica piove, per dire, vedrai che la gente si affaccia in frequenza e parliamo, mentre invece succede sempre la stessa cosa, ormai già da anni è così, Ofra. Capo, beh, sai cos'è, quando anche se uno è in pensione, io pensavo che era diverso, però sempre qualcosa te la cerchi da fare, capito? Te la cerchi. E purtroppo a volte non stai neanche alla radio e stai lì a fare altre cose. Certo che sì, diciamo la verità, perché ci siamo troppi anni in frequenza e si sa come tutto, tutte le passioni della vita prima o poi finiscono, e questa è proprio sul viale del tramonto definitivo, perlomeno qui a Sassa, perché quando c'è propagazione, io ne sento tantissime da ogni parte d'Europa, addirittura tempo fa ho sentito la California, ti puoi immaginare, tanto per dire, no? Allora, evidentemente nel resto del mondo c'è ancora tanta gente che ci parla, mentre invece qua noi ormai siamo ridotti a pochissime persone. Sì, quello sì. Vabbè, diciamo che almeno ogni tanto ci sentiamo, almeno ogni tanto ci sentiamo. E ieri, avanti ieri, ero sempre lì vicino a Porto Torres, che stavamo facendo una macchina a mia nipote, abbiamo cambiato il motore e abbiamo finito ieri sera, abbiamo finito e adesso non sto facendo niente, adesso sono libero. Vabbè, certo che sì, va bene così, va bene così, vabbè, il tempo come passato lo troviamo lo stesso, e anche se siamo in pensione il tempo lo troviamo, un po' si esce, un po' il computer, un po' la televisione, qualche volta il baracchino, eccetera eccetera, e dunque durante la giornata quattro passi ce li facciamo lo stesso, non è che siamo in carcere, non siamo reclusi, per cui usciamo quando abbiamo voglia e il tempo passa lo stesso. Fra. Io lo credo, io la mattina mi alzo alle 5, mi alzo, prendo la macchina e scendo giù alla marina, nella pista ciclabile parto dalla marina sino al primo pettine, a dove c'è Giovanni, da lì, da quella rotonda, giro di nuovo e risalgo, e mi faccio, qualche giorno faccio 6 km, qualche giorno me ne faccio 6, 7, 8, anche a 9 sono arrivato, tutti i giorni. Quella è una bella cosa, perché vabbè, ancora tu già sei giovane, per cui puoi fare queste camminate così. Come li fai, a passo svelto oppure trottando, diciamo, dai? No, camminando normale giù, camminando normale, perché se corro faccio meno strada, perché poi ci me la fanno, magari anche le prime volte che non si è abituato, ma prendo piano piano, a me mi interessa che di perdere peso, tenere il peso sempre sulle 80, là, mi interessa, non andare come ero prima, 94 e via. Adesso sono sempre sugli 80, 81, sempre così, perché il medico mi ha detto di camminare ma non esagerare. Beh, certo che sì, non bisogna esagerare, è vero, ha ragione, bisogna camminare, sì, magari ci sai che so io, un quarto d'ora, 20 minuti in più, anziché fare che so io mezz'ora, te ne fai tre quarti d'ora, però camminare, bruci sempre le calorie, le bruci magari nel tempo, allungando il tempo, anziché facendo troppi sforzi, è vero, ha ragione. E anch'io di solito sono sempre questo. col peso, ma adesso in questo ultimo periodo ho aumentato ancora, adesso mi sono avvicinato anche agli 85, perché ti puoi immaginare, anch'io vorrei scendere di nuovo e magari intorno ai 70, se fosse possibile, anzi possibile è, so che cosa vuoi, è sempre una questione di forchetta non riesco a diminuire le porzioni, ecco qual è il problema. Quello è vero, perché anch'io ero così. Adesso mi metto una bella porzione nel piatto, un piatto normale, me lo pieno, ma non a ponte a ponte. Un piatto normale come ti possono dare in un ristorante, no? Poi basta, finito quello, non ne mangio più, no, mi fermo, anche se ho fame, mi fermo io, perché quando mi sono pesato, che stavo ancora lavorando, che sono andato dal medico perché avevo problemi, cosa di diabete, cosa così, no? Stavo andando a rischio di diabete, e allora pesavo 94 kg. E mi ha detto, caspita, lei ne ha troppo di peso. Dice, deve cercare di abbassare, ma questo è un problema. E come faccio? Mi ci sono messo, piano piano sono riuscito a scendere. Sì, e beh certo, tutto in una volta non può pretendere. Bisogna infatti diminuire le porzioni, perlomeno i medici dicono così, di mangiare di tutto, però diminuire le porzioni. Se prima te ne mangiavi per dire 200 grammi di pasta, ad esempio, te ne mangi la metà. Se prima ti mangiavi due fettine o due bistecche, te ne mangi una e così via. Soprattutto quello che conta. Diminuire le porzioni e camminare, quello è importante, camminare, perché anche quello aiuta, soprattutto camminare aiuta moltissimo. Vai fra. Sì, il camminare sì, l'attività fisica è necessaria, anche per il corpo, per tutto, l'attività è necessaria. Guarda, io ho eliminato, diciamo mangiando, al posto di mangiarmi un panino, secondo me sto mangiando me ne mangio mezzo di panino. Con la pasta non è neanche vero pane, perché a me con la pasta non mi piace il pane, non ne mangio. E quello lì è una cosa buona. Perché il pane, devi eliminare un po' di pane, perché dice che il pane è l'unica cosa che ti carica là. Sì, i carboidrati sono dovuti sempre dai farinacci, no? Dal pane, dalla pasta soprattutto, anche il riso lo stesso, è perché sono tutti alimenti che poi si trasformano in calorie, no? E dunque è meglio diminuire quelle, sono le cose principali che devi diminuire, anzi qualche volta bisogna anche saltare la pasta, anzi più di una volta durante la settimana pasta, non mangiarne niente, magari si mangia una fettina, un po' di insalata e queste cose qua e sai bene lo stesso. Poi è una questione di abitudine, tutto il primo periodo, dopo che ci hai fatto abitudine non senti più nemmeno quel senso di fame che ti rimane quando ti alzi da tavola. Sì, ma è così. Guarda, io ti dico una cosa, da quando pesavo 90 kg, adesso, prima quando mi sedevo per terra così, o a ginocchi per terra, per alzarmi faticavo. Ah, me ne biso veloce, me ne biso. Anche se non mi alzo mai veloce perché non è consigliato. Però mi alzo tranquillo, perfetto mi alzo. Mi curco a terra. Mi alzo, ieri per dire mi coricavo sul barellino per entrare sotto la macchina e tutto, sul carrellino, e poi mi veniva bene alzare, mettevo la mano in terra, giravo e me ne salivo. Ma io fanno prima, quando pesavo 90 kg. Sì, e beh certo, tutto è importante, ma anche per le ginocchia, sai, con l'avanzare degli anni l'uomo si indebolisce nelle articolazioni delle ginocchia, eccetera, caviglie, eccetera, perché essendo più leggero hai sempre un vantaggio grandissimo, ecco, perché anziché sovraccaricare sovraccaricare le articolazioni, non le sovraccarichi e dunque cammini meglio, funzioni meglio, non ci sono dubbi. E vabbè, e soprattutto la pancetta, si abbassa anche la pancetta facendo così. Sì, bella, sì, Marina si è abbassata. grazie. Aspetta, quando lavoravo giù, ci preservavamo sempre nel peso, eravamo io e il mio collega, eravamo sempre a parità di peso, eravamo, anche a tutti e due abbiamo questa. Ci avevamo la bilancia, quella manuale, ci avevamo quella industriale. Ogni giorno andavamo e ci pesavamo, ogni giorno. Praticamente mi sono pesato in casa, faccio un po' sul vetro, in realtà la bilancia mia mi ha detto, va a dirmi. Anche la bilancia si lamentava, non sopportava più il tuo peso. E vabbè, e comunque è così, fra, io lo so, purtroppo si sa, i peccati di gola si pagano, anche perché quando uno lavora, si sa, ha bisogno di un sostentamento o di alimentazione più proficuo, però una volta che uno va in pensione si lavora di meno, si spreca di meno calorie, e allora bisogna incominciare a ragionare un pochino meglio, diminuendo le porzioni e soprattutto facendo attività fisica. Sì, è l'unica cosa che si deve fare, è l'unica cosa. Intanto mi spendi un'ora e 10, fai anche un'ora e un quarto giù, però dopo tutto il giorno ce l'hai libero. Cos'è un'ora e un quarto di tempo a dedicare a queste cose? Per me non è niente. Vado la mattina presto al fresco, nel latte, vado tranquillo, tutte le mattine alle 5, alle 6 e un quarto hai già finito. Quella è una cosa importante, anche quello, alzarsi molto presto, anche quello sembra così, ma una volta che uno si abitua non sente più, diciamo, la stanchezza, eccetera. Io la verità mi alzo sempre intorno alle 8:30 e tante volte anche alle 9, che ti puoi immaginare, per cui è diverso, dai. Vabbè, io ti dico tanti anni, per cui è diverso. Parlare e fare un confronto fra me e te non è possibile, perché tu hai 15 anni e meno, più o meno, una cosa del genere, per cui è diverso, dai. Perché man mano che si va avanti è chiaro che c'è sempre meno buia, no? Sì, quello sì. È giusto, 68 anni compiuti, insomma. Io so che è così, perché io ho compiuto 80, sicché tu mi sembra ne hai 67, se ricordo bene, così. No, 68 compiuti. Sicché siamo lì, siamo a livello di 12 anni e non sono pochi. Non sono pochi, sono i più difficili quelli, o fra. Capo, no, quello sì, caspita. Speriamo sempre di prendere sempre molti di più, di arrivare, a volte dico, io ho ancora altri 30 anni di tempo, a volte anche ieri a mio cognato gli ho detto, quindi, a io che non c'è tempo, no, ho altri 30 anni di tempo, tu non ti devi preoccupare, ma bagaggio può stare lì. Quello sì, vabbè, si parla, è ovvio che si parla, ci mancherebbe altro, non conviene mai abbattersi così e buttarsi giù, no, bisogna sempre pensare in grande, va bene così, vabbè, comunque, siamo lì, io non lo so come non lo sa nessuno, e c'è un po' per il mare, tutto è considerato più di... Anche ragazzini da niente, da 4 anni, 3, 4, 5 anni, anche di meno, spariscono così, muoiono da un giorno all'altro. Figurati le persone che hanno fatto già 80 anni, non c'è da meravigliarsi, guarda. Sai chi è morto da poco? Forse tu te lo ricorderai. Ti ricordi Salvatore, quello che lavorava col trattore, che parlava col baracchino dal trattore addirittura? Il padre è morto da poco, 80 anni, è morto 15 giorni fa nemmeno. Sì, mi ricordo di quello. Ha morto è quello. Allora, Francesco Turra, io l'ho visto sui necrologi, l'ho visto, siccome io lo conoscevo anche molto bene, che lui veniva sempre nel negozio di igiene alimentare che c'era a fianco la mia falegnameria, no? portava lui delle cose a quella signora, anche perché erano amici con quella signora, no? la moglie di questo uomo, amici, e dunque io ho avuto modo di parlarci tante volte con questa persona. Non ho avuto una persona in gamba, io, un toro, se tu lo vedevi era un toro come uomo, bella presenza, robusto, alto, insomma, purtroppo è morto l'altro giorno, quando, pochi giorni fa ho visto il necrologio, ho visto sul giornale, è morto Francesco Turra, poi ho capito subito il figlio Salvatore, che è Salvatore quello che parlava col barattino dal trattore, ti ricorderai, no? Sì. Anche a lui qua, io non lo conoscevo di persona, lui, non lo conoscevo, però ci ho parlato qualche volta. Noi lo stesso siamo cose di lutto, perché è venuta a mancare anche mia suocera da poco, sarà un 15-20 giorni fa, ancora siamo in alto mare. Certo, purtroppo è così. Ora, prima o poi, arriva il tempo per tutti, ma comunque non ci dobbiamo pensare a queste cose, se no la vita finisce subito, almeno mentalmente, invece bisogna tirare avanti finché è possibile, quando pure la volontà di qualcuno superiore a noi decide, pazienza, e il destino è quello. Capo, ma io quest'anno per me è un anno, non lo dico perché è una parola brutta, è un anno proprio perché abbiamo fatto il coso mia suocera, poi appresso è venuto a mancare il fratello di mio cognato di Olmedo e siamo andati di nuovo al funerale a Olmedo, tutto in un colpo, mi chiama mia sorella, mi dice Francesco guarda che è morto Salvatore, mio cugino Ditti, ha giurato, e va basta, l'ha detto, caspita, non mi ha detto di bruciare, a funerale no. Purtroppo questo non lo decide nessuno, non lo decidiamo noi quando arriva il momento, non lo decidiamo, non lo possiamo decidere, non abbiamo le capacità per decidere questi momenti, purtroppo è il destino che decide. Vabbè dai, che ore sono? Le 8:05, adesso scendo a cenare, dai frate, di solito noi scendiamo alle 8, magari mia moglie è già apparecchiato anche e magari mi sta aspettando. Adesso quando scendo mi si è in ritardo oggi, perché io, quando scendo e non è apparecchiato glielo dico io, si è in ritardo oggi, allora lei mi contraccambia in queste occasioni, quando io scendo più tardi. Vabbè, tutte le donne sono così, perché anche la mia già se ne frega di queste cose, già ti riprendo ogni tanto, quando non arrivi in tempo, e quello già è vero. Vabbè, infatti non me ne ero accorto neanche che erano già le 8, a parte che io devo prendere anche delle pastiglie, perché la vecchiaia è anche carrogna, e allora dobbiamo prendere anche delle pastiglie quando andiamo in pensione. No, io grazie a Dio, io da poco ho fatto l'ultimo controllo e devo dire che va tutto bene, sanno quello che mi hanno detto, per cui quel problema che io ho avuto e sembra che stia andando a meraviglia, che sta scomparendo, scomparso del tutto addirittura, perché dai vari controlli non risulta più niente. Va bene, frate, io ti ringrazio per la chiacchieratina che abbiamo fatto, avremo modo di risentirci ancora sicuramente e ti saluto, ti auguro buona cena, dai fra, io ascolto il finalino e dopodiché chiudo, ti prendi fra, buona cena e buonanotte. Ehi capo, dai, buona cena anche a te, buonanotte, e ti auguro con tutto il cuore che sparisca veramente tutta quella storia là. Ok, ciao Giulio, buon proseguo, buon tutto e buona carica. Ciao Claudio, ci sentiamo, ciao, torno a cenare, ciao. Sono più tardi. Sì. Ciao ciao. Ciao Claudio, se mi ascolti ancora, ci sentiamo. E adesso c'è la portateci. c'era negli occhi col dito adesso. Vai e continua a forzare tua moglie, vai come facevi prima. アクシー向けの住宅数でお伝えします。